Incontri di Gianfranco Fabi. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti. Con questo brano di Azzurro, interpretato con grande efficacia da Paolo Conte, iniziamo l'incontro di oggi con Mario Moretti Polegato, presidente di Geox Italia. Che cosa le ricorda questa canzone Azzurro? Ma sicuramente Azzurro sta sostituendo Volare. Spesso quando sono in giro per il mondo entro in qualche ristorante italiano che poi sta a vedere se poi lo chef è italiano, ma comunque l'aria d'Italia c'è la canzone di Volare. Adesso invece sento con molto piacere questa musica e mi sembra di essere a casa mia. Quindi ringraziamo innanzitutto, facendo buona domenica, quanti ci ascoltano, Mario Moretti Polegato, per essere qui. Geox è una realtà giovane che ormai in pratica tutti conoscono, anche se ha solo 15 anni. È un fenomeno che viene studiato in tutto il mondo per la velocità con cui si è creato un brand globale. E il successo nostro fondamentalmente è fatto da tre elementi. Da una parte l'investimento nostro nella tecnologia, nella creatività. Abbiamo creato la suola di gomma capace di respirare, abbiamo creato la giacca che respira, abbiamo creato la suola di cuoio che è impermeabile all'acqua e molte altre nuove innovazioni e brevetti, totali ne abbiamo 50. Ma il nostro segreto è stato quello di aver avuto la capacità di abbinare o applicare queste tecnologie alla moda italiana. Quando siamo nel mondo e vediamo una scarpa italiana, lo stile italiano, sicuramente è un vanto anche per il nostro paese e soprattutto è molto apprezzato. E la terza fase del nostro successo è come abbiamo sviluppato questa idea. Cioè, in poche parole, noi abbiamo introdotto in Geox un business model, una forma di business un po' diversa da quello che impariamo nelle scuole, che si basa innanzitutto a quella, siamo partiti con un gruppo di ragazzi, eravamo in 5, quindi non è una società che è partita con padre e padrone, come chiamano gli americani, mamma se papa si operation, ma è partita già dall'inizio con sapendo delegare agli altri. La seconda è che continuiamo a investire nella tecnologia. Terzo, continuiamo a investire nelle risorse umane, perché ricordiamoci che alla base di tutto c'è l'uomo e quindi se noi sappiamo investire negli uomini avremo successo. Allora torniamo un attimo indietro, all'inizio, all'idea. Come è nata l'idea? Non è nata in Italia questa sua idea, cioè è nata da lei ma quando non era in Italia. Io racconto spesso, soprattutto dove sono invitato, nelle principali università del mondo, Cambridge, Columbia University, MIT, l'idea di come è nata da me, da una singola persona. Noi sappiamo che spesso le grandi idee nascono nell'ambiente universitario, dove un gruppo di ricercatori per anni si pongono degli obiettivi, soprattutto nel campo medicale, e spesso neanche non ci arrivano. Oppure certe idee, delle buone idee, nascono da riflessioni personali, come l'ho avuta io, ma molte persone che ci stanno ascoltando, magari anche loro hanno avuto nella loro vita un momento in cui hanno creato una buona idea. La mia è nata un giorno, io provengo da una famiglia che non c'entra nulla con le scarpe, è una famiglia che produce vino prosecco nella zona di Treviso da più generazioni. E mio padre mi ha detto un giorno, senti, va negli Stati Uniti a promuovere i nostri vini di famiglia in una fiera del vino che quell'anno si teneva a Reno in Nevada, vicino Las Vegas. Questo paese è un paese buffo perché molti lo ricordano come il paese, la città dove ci si può sposare e divorziare nel giro di qualche ora. Io però ero là per altre cose. E quando ho finito così di parlare con i vari uomini di importatori, alla fine ho deciso di fare una passeggiata nel deserto là vicino. Ho cambiato le mie scarpe, ho usato un paio di sneaker, quelle che noi in Italia chiamiamo da ginnastica con la suola di gomma, e camminando soffrivo con i miei piedi. Perché? Perché i miei piedi si surriscaldavano. Ho estratto dalla mia tasca un coltellino, sapete quei coltellini svizzeri col manico rosso, e ho fatto un buco nella suola destra e un buco nella suola sinistra, pensando di aver raggiunto una buona ventilazione. Quando poi sono tornato in Italia, ho studiato la soluzione perché da quel buco non entrasse acqua quando pioveva, e ho trovato un materiale, che oggi lo applichiamo nella parte interna della suola, che si chiama membrana, che fa passare il sudore e non l'acqua. In poche parole, avevo creato per la prima volta al mondo la sola di gomma capace di respirare. Ecco, quindi un buon prodotto è alla base indubbiamente di un successo commerciale, però il buon prodotto non basta, ci vuole un'innovazione anche nel saperla proporre, e qui Geoc è stata antesignana anche in una nuova forma di comunicazione molto, molto esuberante, molto innovativa. Diciamo che è stato un atto di coraggio. Probabilmente se io fossi nato in una famiglia che faceva moda, difficilmente avrei scelto questa immagine, che all'inizio era molto ossessionante, cioè una sola di gomma con lo sbuffo di vapore. Però è stata la nostra fortuna, perché la nostra preoccupazione era, ed è tutt'oggi, non è tanto quella di fare la moda, che comunque è molto importante, infatti i nostri prodotti sono abbinati alla moda, ma è quella di dire che è nata una rivoluzione, è nata una nuova era nel campo delle calzature e anche dell'abbigliamento. E soprattutto bisogna rendere questo messaggio a livello internazionale, cioè urlarlo nelle piazze di New York, nelle piazze di Shanghai, di Francoforte, di Tokyo. E vi assicuro che questo non è facile. Però questo sistema di comunicare ci ha molto aiutato. Ecco, voi avete scelto anche la strada di aprire dei negozi vostri, di non servirvi anche di, appunto, di commercializzazione esterna. Quindi è una strada che ha valorizzato in questo profilo il marchio. Grazie ai ragazzi e allo staff di persone che sono molto molto efficienti all'interno di Geox, in pochissimo tempo abbiamo aperto 1150 negozi, e i nostri negozi Geox sono ubicati nelle vie della moda le città principali del mondo, per arrivare addirittura nei centri principali, dico New York, Milano, Francoforte e Parigi, che abbiamo addirittura aperto delle cattedrali. Se qualcuno che ci ascolta ha visitato il Palazzo che respira in centro Milano, in via Torino, rimane veramente impressionato, perché vede una superficie a più piani di 1000 metri quadri, dove rappresentiamo la Geox di oggi, di ieri e del futuro. Quindi una Geox che a questo punto non è solo scarpe. La Geox oggi è un unico messaggio: migliorare la vita attraverso la traspirazione e anche attraverso la moda, naturalmente. Allora, c'è stato necessario anche all'interno del negozio creare un format che sia e che ispiri a questa nostra vita che Geox propone. Ecco, quindi una situazione di proposta complessiva di un modo di vivere che è più aperto, più confortevole, più razionale, un modo di vivere che però ha in sé delle caratteristiche molto forti di innovazione. La scarpa è chiara qual è stata l'innovazione. Nell'abbigliamento, innanzitutto dobbiamo considerare che il consumatore oggi è cambiato. Il consumatore oggi è molto più attento, sta molto più attento a spendere il denaro, e vuole spendere meno ma meglio. E questo non solo nel nostro mercato italiano, ma in tutto il mondo. Ora, Geox, per spiegare bene il funzionamento dell'applicazione della tecnologia nelle giacche, non è che Geox oggi con il proprio marchio voglia produrre tutte cose, accessori, eccetera. Ma Geox vuole innovare tutti i prodotti che presenta il consumatore. Per esempio, è facile capire la necessità di respirare con i piedi, basta che pensiamo alla pianta dei nostri piedi che è sempre umidiccia. Ma la stessa cosa succede anche nelle spalle quando usiamo un capospalla o una giacca. Infatti, se noi tocchiamo con la mano sentiamo umidità. È per questo che Geox ha fatto i buchi sopra le spalle per permettere al calore di uscire. Quindi sono cose a volte anche semplici, forse anche troppo elementari, ma la nostra fortuna è che nessuno mai le ha fatte prima di noi. Le ha pensate. Ecco, in questo punto però Geox è anche diventato un marchio che va al di là dell'innovazione specifica, un marchio che potrebbe anche essere apposto su altre realtà, per esempio un libro, un quaderno, un giradischi. Non avete pensato di diversificare anche in altri settori la vostra attività? Oggi Geox vuole impegnare a estendere questa sua esperienza, a far capire questa esperienza nel mondo dei giovani, e uno dei nostri compiti è sul sociale. Stiamo investendo molto sui giovani, sia all'interno dell'azienda creando delle scuole di formazione, ne abbiamo le scuole per i tecnici, per i manager, per i top manager, per i giovani laureati che vogliamo assumere, creiamo delle borse di studio per le scuole finché i ragazzi incominciano a sfidarsi nella creatività anche nelle scuole limitrofe a Treviso, dove noi operiamo, e partecipiamo ai meeting più importanti al mondo, agli World Economic Forum, non solo per parlare di economia, ma per parlare ai giovani e di far dare entusiasmo ai giovani e di fargli credere ai giovani che ce la possono fare grazie alle loro idee in un mondo così difficile. Ecco, voi avete partecipato anche al Festival della Scienza, magari ne parliamo nella seconda parte, però vorrei concludere questa prima parte proprio perché lei ha parlato dei giovani, forse dando una notizia: voi siete un'azienda che assumete ancora dei giovani. L'anno scorso, nonostante la crisi, abbiamo assunto qui nella nostra struttura italiana, perché ormai Geox è nel mondo, solo in Italia, 199 persone, ma sono persone di concetto. A Montebelluna, magari qualcuno che ci ascolta sa dov'è, è in un paesino alla periferia di Treviso, abbiamo il nostro quartier generale. Operano 700 ragazzi dall'età dai 28 ai 38 anni, quindi sono tutti giovani. Bene, il 90% di questi ragazzi è tutto laureato o diplomato. Quindi noi abbiamo fatto una fabbrica dei talenti e questi ragazzi lavorano in diversi settori. Un gruppo lavora alla ricerca, un gruppo lavora allo stile, un gruppo lavora al marketing, al retail, che vuol dire ai negozi, alla finanza, eccetera. E tutti assieme costituiscono l'azienda Geox. Incontri. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora bentornati, bentornati, buon pomeriggio, buona domenica. Siamo ancora con Mario Moretti Polegato. Abbiamo parlato nella prima parte di questo mondo Geox, della sua idea, della sua innovazione, della produzione di queste scarpe che hanno fatto un grande successo, di un'azienda che è diventata un'azienda presente in moltissimi mercati, che ha comunque un cuore italiano. Abbiamo concluso la prima parte parlando di questo cuore italiano, di questi giovani che vengono ancora assunti dall'azienda. Ha detto quasi 200 giovani assunti lo scorso anno. Qual è allora la realtà della Geox? Quante persone lavorano in Geox? Quante in Italia? Quante negli stabilimenti all'estero? Nel gruppo Geox oggi lavorano circa 30.000 addetti nel mondo. In Italia abbiamo il nostro quartier generale, che abbiamo spiegato è fatto di tutte persone di concetto, di gran parte di ragazzi laureati e diplomati a Montebelluna, sono 700, più poi nei negozi e nel nostro indotto lavorano più di 2.000 persone. Quindi siamo una grande realtà per questo paese. Quindi più di 2.000 persone che lavorano in Italia, 30.000 complessivamente, le fabbriche sono in Romania gran parte? Noi produciamo tutto in outsourcing. Che cosa significa? All'interno della nostra struttura realizziamo il design, la tecnologia, la materia prima è gran parte italiana, perché abbiamo per esempio anche a Firenze le nostre concerie. L'assemblaggio e la costruzione materiale della scarpa la facciamo con quella che in inglese si dice in outsourcing, fuori dell'azienda, in fabbriche in Italia, all'est Europa e sparse per il mondo. Ma questa è stata una scelta obbligata, visto il grande volume che noi produciamo ogni anno. Ecco, quando si parla di delocalizzazione si pensa al fatto che un'azienda porti all'estero appunto le proprie produzioni. In questo caso l'azienda ha all'estero le proprie produzioni, ma sono queste produzioni all'estero che garantiscono il fatto che ci siano 2.000 posti di lavoro in Italia. Se non fosse così, neanche questi 2.000 posti ci sarebbero. Geox non è solo un brand di scarpe, Geox è una rivoluzione. Voi dovete pensare che il 90% delle calzature che l'umanità, e non gli italiani, usa, hanno la suola di gomma. Vuol dire le calzature per bambino, da uomo, donna, le calzature che usano i militari, gli atleti, eccetera. Noi siamo gli unici al mondo a usare questa tecnologia. Quindi non si può neanche immaginare quanta strada noi possiamo fare nel prossimo futuro. È per questo che noi abbiamo messo le basi nel mondo, sia le basi commerciali che le basi costruttive, per essere pronti a vendere il nostro prodotto anche in loco. Ecco, con l'idea che tutto si può innovare, tutto può essere fatto meglio. La scarpa in fondo ha l'immagine di un settore maturo, un settore in cui l'Italia aveva una grande posizione di forza che poi progressivamente stava perdendo proprio per effetto dei minori costi del lavoro che c'erano all'estero. Innovare in questo senso può essere una strada vincente anche per dei settori maturi. Io non vedo altre strade per rilanciare l'economia del nostro paese, l'economia europea e l'economia di ogni singola azienda se non innovare i prodotti. In poche parole possiamo spiegare anche a chi ci ascolta. Se lasciamo le scarpe, ma parliamo di un altro elemento, parliamo di sedie, parliamo di mobili. Oggi non è possibile porsi nel mercato e vendere un prodotto generico, ma bisogna che quella sedia, quel mobile sia differente da quello che esiste nel mercato. Ma questo non basta. Bisogna che questa differenziazione, che è frutto della creatività dell'azienda, l'azienda, della persona che l'ha prodotto, sia anche brevettata, perché altrimenti dura poco. Quindi quello che io consiglio a tutti i miei colleghi, che è quello di creare prodotti innovativi, brevettarli per far sì che loro, solo loro, li possono avere e guidare nel mercato. E la terza fase, che è altrettanto importante, che poi funzionino. Cioè, ogni prodotto nuovo che è brevettato deve funzionare, ha bisogno della sperimentazione. E qui apriamo un capitolo. Perché? Perché molto spesso un piccolo imprenditore o un inventore non ha la capacità economica per allestire dei laboratori di sperimentazione o di ricerca. E spesso non ha neanche la cultura, perché non necessariamente deve essere un ingegnere, un chimico. Dobbiamo sapere che ci sono nelle nostre università dei laboratori a disposizione di tutti, dove noi ci possiamo rivolgere per fare questa fase. Ecco, lei ha partecipato nei giorni scorsi al Festival della Scienza. Geox era presente al Festival della Scienza di Genova, ha avuto anche un colloquio con un premio Nobel per la chimica, un colloquio basato sulle idee. Le idee sono il punto di forza su cui abbiamo parlato proprio all'inizio della nostra trasmissione, su cui lei punta come quasi un modello di vita. Che cos'è l'idea per lei? C'è da fare una grande considerazione. Noi italiani, molti di noi italiani, abbiamo tanta fantasia, tanta creatività. Gli stessi stranieri vedono gli italiani persone molto positive nel creare la moda, il design, la meccanica, moltissime cose. Però spesso non abbiamo la cultura, che è la nostra cultura, di creare. Non abbiamo parallelamente una cultura di gestire le nostre idee. E quindi alla fine siamo degli artisti, cioè delle persone che creano e poi si pongono nel mercato e poi piangono. Perché? Perché il cinese copia, perché l'altra persona copia, eccetera, eccetera. Dobbiamo cambiare completamente il sistema. Noi dobbiamo gestire le idee proteggendole immediatamente con la proprietà intellettuale e con il brevetto. E la terza fase, dobbiamo far sì che queste idee funzionino. Quindi, alla fine, dobbiamo renderci conto, e questo l'ho detto anche con il premio Nobel ERT, che è un premio Nobel tedesco della chimica ben meritato, che praticamente questo capitalismo sta per essere cambiato. Il capitalismo alla vecchia maniera, passare da un capitalismo puramente industriale, dove finora abbiamo investito tutti quanti nelle infrastrutture, nei capannoni industriali, nei macchinari, a un capitalismo più culturale, o anche più culturale, dove investiamo sui giovani, dove investiamo sulle idee, dove investiamo sui brevetti, dove investiamo sull'università. Allora, facendo così, noi possiamo creare nel nostro paese delle aspettative diverse e vedere magari alla Fiera di Milano non soltanto gli stranieri che vengono in Italia per comprare camicie, scarpe o roba del genere o oggetti, ma per comprare anche idee. Ma per poter vendere un'idea deve essere completa. L'idea deve essere trasformata in un progetto. L'idea deve essere l'abbinamento fra creatività, brevetto e sperimentazione. Bisogna dare fiducia ai giovani, lei lo dice, l'ho ripetuto. Questo nostro è un paese che stenta a dare fiducia, che stenta ad avere fiducia nel proprio avvenire, nel proprio futuro, che stenta a costruire una realtà dinamica. Cosa si può fare per cambiare un po' l'ispirazione di fondo di un paese che molto spesso guarda a se stesso come un paese in declino? Pochi giorni fa sono stato invitato a Palermo a parlare con i giovani e mi dicevano che nella Sicilia l'80% dei ragazzi sono disoccupati e quel 20% occupati lavorano sotto le infrastrutture dello Stato. È veramente un grande problema questo, perché sono ragazzi con grandi capacità, sono ragazzi che ci scappano, che poi li troviamo in America, li troviamo in Germania a servire altri popoli. Noi dobbiamo tenerceli qua. Quindi io inviterei tutti coloro che oggi hanno una responsabilità istituzionale in questo paese, la politica, i sindacati, le stesse categorie nostre che lavorano, i piccoli imprenditori, diciamo tutti, con esclusione di nessuno, a sedersi su un tavolo di concertazione e di investire quelle poche risorse che ancora questo paese ha a favore dei giovani. Ecco, in questo profilo l'Italia è un po' il paese più delle risse, più del confronto, più del dibattito, che non della concertazione, che non dell'accordo. Anche la politica forse dovrebbe trovare qualche idea innovativa per uscire un po' dalle solite logiche con cui è costruita o si è costruita negli ultimi anni. Questo paese non ha altre risorse che un'economia reale. che è quella della trasformazione della materia prima, comprare ferro e vendere automobili, comprare cuoio e vendere scarpe, e comprare legno e vendere mobili. Sono delle similitudini, giusto per far comprendere a chi ci ascolta che cosa l'Italia, dove fa il suo guadagno l'Italia. Quindi in questa fase, se noi riusciamo a rilanciare questa economia, noi riusciamo a fare ricchezza nel paese e a tenere in piedi tutto il sistema paese. Se noi invece continuiamo a occuparci di cose seppur importanti ma minori, non avremo neanche le risorse per poter pagare le pensioni un domani e chi andrà in pensione. Dobbiamo essere convinti che si può sempre fare meglio, quello che facciamo può essere sempre fatto meglio, può essere sempre fatto in modo innovativo. In questo l'innovazione è qualcosa che deve comprendere complessivamente l'attività di un'impresa. Voi avete fatto anche dei passi coraggiosi, la quotazione in borsa, per esempio l'ingresso in un mercato in cui si deve essere più trasparenti, più aperti. Ecco, come guardando al passato, ma soprattutto guardando un po' al futuro, quali passi farebbe ancora o non farebbe più e quali passi sta per fare guardando in avanti? Innanzitutto, e questo lo dico per tutti, quando tu sei interessante tutti ti vogliono. Ti vuole la borsa, ti vuole il mercato, ti vogliono i consumatori e il tuo prodotto è gradito. Per essere interessanti bisogna essere innovativi, quindi noi continueremo in questa strada qui. Continueremo a investire il 2% del nostro fatturato nella ricerca, continueremo a lavorare assieme con le principali università italiane, che mi riferisco all'Università di Padova, CNR, all'università anche straniere, e continueremo a far sì che i nostri prodotti, soprattutto nel campo internazionale, siano prodotti diversi da quelli che esistono sul mercato. Quindi, per concludere, Mario Moretti Polegato, possiamo dire che lei continuerà a camminare e Geox camminerà forse ancora più veloce. E se il Signore mi darà la fortuna della salute, prima di tutto sarò sempre a disposizione, sempre di più, ai giovani italiani che ci stanno ascoltando. Grazie, grazie a Mario Moretti Polegato, presidente di Geox Spa, grazie a Filippo Regi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, potrà essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Ancora buona domenica e buon pomeriggio a tutti.